Amore, amore, amore, amore, amore. Su questo amore è già stato detto tutto, eppure tutti hanno ancora da dire. Chi parlando del cuore, chi con parole nuove. Amore, amore, amore, amore, amore. Ad ascoltare tutto quel che se ne dice, sembra che intorno ci sia solo gente che oltre al grande amore non pensa a niente. Chi fa dell'amore la cosa più grande, chi invece lo vede soltanto come un gioco, chi ha dall'amore i suoi giorni più belli, chi invece vi trova solo disperazione. Amore, amore, amore, amore, amore, ovvero amore, ti cercano sempre, parlan di te anche troppo sovente, io per una volta non dirò niente.